2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, se questa per voi è la prima volta, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Tutte le nostre interviste in versione integrale sono disponibili nella versione podcast del nostro programma. Iniziamo prendendola, diciamo, un po' alla larga, perché iniziamo dallo spazio, visto che mercoledì 15 potrebbe essere battuto un record mondiale molto particolare, ma che ci racconta come si sta trasformando il business legato allo spazio. Dunque, l'Agenzia Spaziale Indiana, che è una delle agenzie più attive nei lanci commerciali di satelliti, farà un lancio particolare. Allora, lancerà un razzo che trasporterà 104 satelliti. 104 satelliti, avete capito bene, un primato mondiale. Però ovviamente si tratta di mini satelliti, i cosiddetti CubeSat, satelliti cubo, delle dimensioni, giusto per farci capire, di un panettone, quindi cose molto piccole. Spesso hanno una vita operativa di pochi mesi e sono pensati per un solo scopo. Hanno quindi un solo sensore, magari per fare analisi dallo spazio di un certo tipo. Nel caso in questione, 88 satelliti su 104 sono di fatto delle videocamere, quindi una sola funzione. Sono videocamere che verranno messe in orbita per conto di una società americana che si chiama Planet Labs ed è specializzata in immagini della Terra ad alta risoluzione. Ha già 60 satelliti in orbita e proprio notizia di pochi giorni fa che Google ha venduto la propria società specializzata in immagini satellitari, e sappiamo l'uso che Google ne fa per le proprie mappe. Allora, questa società, che era stata acquistata per 500 milioni di dollari, si chiama Terra Bella, un bel nome. Negli Stati Uniti i nomi italiani fanno sempre molto successo. Allora, questa Terra Bella è stata venduta appunto a Planet Labs. Terra Bella è una società di fatto piccolina, perché ha 7 satelliti, non sono 7 satelliti così, così piccoli, ma comunque insomma è una società piccolina rispetto a Planet Labs, che ha così tanti satelliti ed è in grado di fare una mappatura praticamente quotidiana della Terra, quasi quotidiana della Terra, perché avendo così tanti satelliti fanno un sacco di foto. Pensate alle dimensioni dei server per immagazzinare queste foto ad alta definizione. Allora, che cosa ci dice questa notizia? Beh, una ulteriore conferma che sempre più lo spazio è a basso costo, quindi c'è almeno una parte del business legato allo spazio i cui costi si abbassano. Pensate a quello che sta facendo SpaceX con il recupero di una parte dei razzi per velocizzare la messa in orbita, ma anche per risparmiare. Poi un altro dato fondamentale è la maggiore semplicità, un mercato più ampio per tante applicazioni. E uno potrebbe dire, vabbè, ma a me personalmente che cosa cambia? Ma cambierà sicuramente, perché oltre alle immagini che diventeranno sempre più frequenti, sempre più ad alta definizione, ci saranno mille altre applicazioni di rilevazioni che vengono fatte dallo spazio, che si trasformeranno in servizi o comunque miglioreranno i servizi di cui utilizziamo già oggi. Quando diciamo a basso costo, parliamo in alcuni casi di decine di migliaia di euro per lanciare un satellite, cosa che ovviamente non è alla portata di tutti. Però pensate, anche una piccola organizzazione che volesse fare un tipo di ricerca, un'università, oppure anche delle scuole. Ci sono state scuole che hanno avuto l'opportunità di lanciare piccoli satelliti di questo genere. Insomma, sono satelliti che si realizzano con poche decine di migliaia di euro. Un'altra notizia importante della settimana riguarda una novità che arriva da Bruxelles dopo quella del roaming, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Allora, si tratta in questo caso della portabilità dei contenuti. Di cosa stiamo parlando? Allora, quando viaggiamo all'interno dell'Unione Europea, all'interno dei confini dell'Unione Europea, e vogliamo ascoltare e soprattutto vedere contenuti video, quindi servizi internet a pagamento sostanzialmente di cui abbiamo un abbonamento magari in Italia, quindi pensiamo film, serie televisive, partite di calcio, la Formula 1, eccetera, eccetera. Però oggi capita, direi quasi sempre, di vedere apparire un messaggio che ci dice: questo contenuto non è disponibile nel tal paese. Però il problema è legato alla vendita dei diritti, che viene fatta sulla base di licenze legate ancora oggi ai confini nazionali. Adesso però la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno trovato un accordo per creare una sorta di passaporto per i contenuti sulla falsa riga di quello che è stato fatto appunto per abolire gli extra costi del roaming per telefonare o navigare in internet all'interno dei confini dell'Unione Europea. Allora, la novità è che dall'anno prossimo, a meno di sorprese perché questo accordo va ratificato, comunque non dovrebbero esserci grandi sorprese, dall'anno prossimo chi viaggerà da un paese all'altro dell'Unione Europea potrà vedere in streaming film, eventi dal vivo, ascoltare musica come fosse nel proprio paese di residenza. Però attenzione, la portabilità varrà solo per chi viaggia ed è legata al paese di residenza dell'utente, cioè non si potrà ad esempio utilizzare in modo continuativo un servizio quando siamo all'estero, cioè se noi ci abboniamo, ammesso che sia possibile, ad un servizio inglese oppure francese che ci fa vedere video online, non lo possiamo utilizzare permanentemente in Italia. Viceversa, se ci abboniamo a un servizio italiano non è che possiamo stare tanto tempo all'estero. Questo insomma per tutelare queste complicatissime norme legate ai diritti, al diritto d'autore. Come dicevo prima, l'intesa dovrà essere formalmente approvata dalla Commissione Affari Giuridici dell'Europarlamento, dall'Assemblea e anche dal Consiglio Europeo, ma non dovrebbero esserci grandi sorprese. Abbiamo ancora alcune notizie in breve della settimana, prima delle nostre interviste, prima dei nostri approfondimenti, nelle nostre Digital News. Digital News. La super moto elettrica italiana energica, che alcuni definiscono la Tesla delle moto, è da questa settimana in vendita anche sul mercato italiano e uno potrà sorprendersi perché dice: ma è una moto italiana? No, era stata lanciata negli Stati Uniti e in altri mercati dove la trazione elettrica è più sviluppata. E da poco esiste anche un distributore italiano. Per maggiori informazioni andate su energicamotor.com, anche solo vedere i video è molto interessante, molto divertente. Energica è una moto sportiva da strada con prestazioni al vertice, come tutti i mezzi che hanno motore elettrico, ha una coppia spettacolare, un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi. L'autonomia di questa moto è di poco inferiore ai 200 km se non si esagera, altrimenti attorno ai 100 km se si spinge, e ovviamente questo può essere un problema. Però la scelta di lanciare anche in Italia è dovuta al fatto che almeno in alcune regioni le colonnine per la ricarica si stanno diffondendo. Stiamo parlando di una bestia da 30.000 euro, però siamo agli inizi di questa era e probabilmente anche per le moto il futuro sarà tutto elettrico. Poi qui c'è un dibattito incredibile tra gli appassionati, ma vedremo che cosa succederà nei prossimi anni. Una cattiva notizia per il mercato della realtà virtuale. Best Buy, che è la principale catena di elettronica di consumo negli Stati Uniti, che ha centinaia di negozi fisici, sta smantellando molte delle 500 postazioni dove si può provare Oculus Rift, il visore di realtà virtuale di Facebook. Però pare che l'interesse dei clienti sia drasticamente calato dopo i primi mesi. Di sicuro c'è ancora un mix di problemi per l'affermazione della realtà virtuale: pochi contenuti, costi ancora abbastanza elevati e qualche limitazione tecnica come quella della definizione. Quasi tutte le grandi aziende che si occupano di display stanno lavorando su nuovi visori. Nel giro di pochissimi anni avremo visori che invece avranno una definizione che sì, si potrà definire molto simile alla realtà, quindi la realtà virtuale potrà avere anche proprio un display che ci farà vedere molto meglio rispetto ai visori di oggi. Però se avete la possibilità e non avete mai provato un visore di realtà virtuale, almeno una prova è sicuramente molto divertente per rendervi conto di cosa stiamo parlando. Secondo Gartner, il mercato mondiale dei droni commerciali e personali crescerà del 34% quest'anno, toccando quota 6 miliardi di dollari, mentre la produzione sarà di circa 3 milioni di pezzi con una crescita del 39%. Stiamo parlando di numeri non incredibili, 3 milioni di pezzi in tutto il mondo, insomma è un mercato abbastanza piccolino. I due segmenti sono tuttavia molto diversi: quello commerciale, che forse è il più interessante, anzi sicuramente il più interessante per evoluzione tecnologica e applicazioni innovative, è una nicchia di mercato fortemente regolamentato perché ci sono norme piuttosto severe in tutto il mondo. I prezzi di queste macchine sono elevati, come giusto che siano, perché sono macchine professionali. Poi c'è il mondo consumer, che è in fortissima crescita con prezzi in caduta libera. Oggi si comprano droni per poche decine di euro, un numero crescente di prodotti di, purtroppo va detto, di bassa qualità, che sono molto simili a dei giocattoli, ma dei giocattoli di cattiva qualità. Però, insomma, per divertirsi un pochettino vanno bene anche questi mezzi. A proposito di droni, in Italia sono oltre 2500 le aziende attive nel settore. Pensate, in pochissimo tempo sono già 2500. Grosso modo 2000 sono operatori che svolgono voli tranquilli per operazioni non critiche, come dice la norma, che non prevedono di sorvolare gruppi di persone, aree congestionate, agglomerati urbani, insomma, dove se cadesse il drone la cosa sarebbe pericolosa. Sono quasi 400 quelle che realizzano invece vari tipi di operazioni, perché non ci sono solo i video, ci sono tutta una serie di altri sensori che vengono attaccati ai droni in operazioni critiche, cioè che necessitano alcune autorizzazioni particolari. I dati sul mercato italiano, l'aggiornamento sul mercato italiano verrà illustrato dall'ENAC, che è l'ente che regolamenta questo settore, in occasione di una manifestazione che si chiama Roma Drone Campus 2017, che ci sarà all'Università di Roma 3 il 21 e 22 febbraio. Dunque, nella nostra puntata vorrei parlare di video che, certo, detto alla radio, essendo il nostro principale concorrente, però c'è spazio per tutti a questo mondo. Insomma, ovviamente le immagini, tutto ciò che diventa video in varie forme su internet, attraverso i canali televisivi tradizionali, è in crescita, e secondo la strategia di molti gruppi digitali che devono comunicare online, si sta passando da mobile first, cioè la strategia basata soprattutto sulla mobilità e sugli smartphone, a, pensate, video first, cioè si sta ponendo più attenzione al video che addirittura al mobile. E pensare che ci sono ancora alcuni che sono ancora legati al classico sito internet, mentre oggi invece bisognerebbe porre sempre più attenzione allo smartphone, perché il traffico e la fruizione dei contenuti attraverso lo smartphone ormai sta superando tutto il resto. Ma appunto c'è chi dice, che tra quelli che si occupano di comunicazione, che bisogna la prima attenzione va posta sul video, visto il crescente successo delle immagini come mezzo di comunicazione. Allora, vorrei proporvi con i nostri prossimi ospiti un mini viaggio ragionato su alcune innovazioni che girano attorno al video. Ugo Parodi Giusino è il fondatore di Mosaicon. Benvenuto a 2024. Grazie. Partiamo dalla vostra azienda. Stiamo parlando e parleremo di video. Voi fate due cose, una più nuova, una con la quale siete nati. Distribuite video, ma una cosa bella, e approfondiremo anche questo, producete, o meglio, aiutate a produrre video. Sì, noi abbiamo rivoluzionato il modo col quale si fanno i video, che tipicamente era un processo che nasceva dalle aziende che facevano una richiesta ai creativi e che poi davano delle proposte e che poi, diciamo, diventavano dei video. Abbiamo completamente ribaltato questa logica. Nella nostra piattaforma in Mosaicon, creativi da tutto il mondo propongono dei video già pronti, che noi diciamo associamo a delle parole chiave, e poi grazie a questo proponiamo questi contenuti a dei brand, a delle aziende che stanno cercando dei contenuti su quei temi che sono specifici. Per cui invece di partire con un obiettivo di fare un video su all'avventura e fare una richiesta con una risposta e poi produrre il video, direttamente qualcuno nel mondo fa un video sull'avventura e l'azienda direttamente trova quel video. Questo accelera moltissimo il modo di gestire i contenuti video, e secondo noi fa una cosa molto bella, che è quella di dare molta più creatività, molto più potenziale ai creativi, che di solito invece sono molto frustrati dalle aziende in questo processo. Sì, anche perché il processo che tu hai descritto, quello originale, che ancora oggi viene utilizzato, è un processo lunghissimo e anche molto costoso. Assolutamente. Mesi di gestione, complicazioni. Poi a me piace tantissimo ricordare che in realtà questa cosa l'abbiamo inventata 100 anni fa, quando è nata la televisione in Italia. Il carosello era esattamente questo. Spiega bene questo, perché è interessante. Diciamo che poi con la televisione commerciale gli spot sono diventati dei contenuti con la finalità di promuovere un prodotto, dei prezzi, delle offerte, no? Il carosello in realtà all'inizio, quando ancora non esisteva il concetto di pubblicità, eravamo proprio all'inizio, era un contenuto anche molto lungo, le famiglie si riunivano, era proprio il momento della famiglia proprio per vedere quel contenuto, e poi alla fine arrivava un brand che diceva: guarda, questo contenuto l'hai visto grazie a me, cioè trovava un modo per sponsorizzare quel contenuto. Però la logica eccezionale, che secondo me è ancora più efficace oggi col digitale, quello che gli utenti non vogliono vedere pubblicità, vogliono vedere contenuti interessanti, e poi chiaramente se il brand diventa un po' un mecenate del contenuto, diventa lo sponsor di quel contenuto, allora l'utente, acquirente, potenziale consumatore apprezza quell'approccio e segue quel contenuto. Quindi se il messaggio pubblicitario, cioè lo spot pubblicitario video, richiede che nelle immagini ci sia la presenza del brand, si va ancora alla vecchia maniera, cioè devi fare le riprese, che ne so, con i biscotti oppure con un'automobile. Ma se, come ci dicevi tu e ci ricordavi il concetto anche di carosello, io marchio voglio offrirti delle immagini che magari richiamano il mio marchio, ma che sono immagini di un bosco, di uno che cammina, uno che corre, la piattaforma e la tecnologia viene in aiuto. Sì, diciamo che specialmente per quei prodotti che magari non sono proprio innovativi, cioè se il prodotto è particolarmente innovativo, magari ha senso farlo vedere e valorizzarlo. Ma nella maggior parte dei casi le aziende hanno del grosso del valore del mercato, dei brand, che poi in qualche modo, diciamo, l'utente sceglie perché se li ricorda, perché dà una credibilità a quel brand. E sempre di più queste aziende lavorano anche su spot famosissimi, soltanto su dei contenuti dove poi il brand arriva alla fine, no? Alla fine di quel video si sa che quel brand è quello che è. Se guardiamo gli ultimi video, gli ultimi 10 anni, il Super Bowl, gli spot più famosi del mondo, quasi sempre sono storie dove poi il brand compare solo alla fine. Diciamo che in alcuni casi sicuramente ha senso invece fare vedere il prodotto in maniera proprio dedicata. Diciamo che gli utenti non sempre sono interessati, o meglio raramente sono interessati a questo tipo di contenuto. Certo, invece tu dici il contenuto che non è legato così strettamente al brand più facilmente viene visto. Sì, diciamo, se io devo scegliere una macchina, no? Un'utilitaria, ci sono tantissime utilitarie che hanno più o meno tutte ormai le stesse caratteristiche nel mondo globalizzato. Scelgo la macchina perché l'associo a dei valori che magari quell'azienda mi propone, sposo più il brand. E a quel punto allora parlare di un video di avventura e poi fare vedere alla fine un'immagine della macchina magari è più efficace che proprio fare vedere quella macchina che magari poi può essere assimilata ad altre. Certo, no? Certo. Senti, i creativi, quindi i contenuti, si trovano facilmente di buona qualità? Ma allora, questo è un mondo che è cambiato tantissimo e poi un po' della mia passione originaria. Se noi pensiamo 15 anni fa, fare un video in 4K, che è una qualità che oggi fa l'iPhone cinematografica, appunto 15 anni fa nemmeno un grossissimo editore si poteva permettere un'attrezzatura per fare il 4K. Se pensiamo alle attrezzature, no, di un grosso editore per il video. Adesso con un cellulare abbiamo il 4K, con una camera da 2000 euro si può fare un video di una qualità cinematografica, e questo grazie al digitale. Per cui da un lato, grazie alla tecnologia, si è accelerato moltissimo la capacità degli utenti, non, diciamo, senza barriere all'ingresso, di poter produrre contenuti video di qualità. Dall'altro lato è un mondo che è cambiato completamente, no? Se pensiamo adesso all'utilizzo del selfie, no? Il video, come vengono utilizzati, per cui questa cosa ha creato proprio un trend. Prima erano molto di meno i professionisti del video. In parallelo siamo in un mondo dove sempre di più gli utenti cercano contenuti originali, per cui non sempre cerchiamo, noi, se pensiamo anche al nostro utilizzo di internet, non cerchiamo contenuti per forza di qualità in assoluto, ma cerchiamo dei contenuti unici, interessanti, che però se realizzati in maniera qualitativa, per cui a noi piace vederlo in maniera molto larga, dove sicuramente noi nasciamo per professionisti, non per l'utente, diciamo, comune. Sì. Però fra i professionisti andiamo da un team di 3 videomaker bravi, di talento, a magari una grossa società che ha un certo tipo di capacità produttiva e che fa dei contenuti molto più magari anche ricercati o particolari. Si trovano. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Voi vi rivolgete a grandi aziende. Sì, noi principalmente lavoriamo con grosse aziende oggi, diciamo, la soluzione nasce principalmente per le grosse aziende, perché sono le aziende che oggi hanno più bisogno di contenuti video. Oggi tutti hanno lavorato per distribuire video dappertutto, però mancano proprio i contenuti video, ancora abbiamo questi spot televisivi che poi vengono adattati a internet e non funzionano, per cui, ed è un problema molto diffuso e chiarissimo alle grosse aziende. Però stiamo proprio lavorando adesso tanto su delle soluzioni che permettono, diciamo, l'acquisto anche ad aziende più piccole. Certo, ci spieghi brevemente in modo semplice qual è il ruolo della tecnologia in tutto ciò. Voi avete questo database infinito di video e un'azienda dice: voglio fare una comunicazione basata su un video e devo scegliere. Come fa? Allora, innanzitutto ci definiamo un Human Creativity Engine, cioè un motore della creatività umana. Questo vuol dire che la nostra energia fondamentale è la creatività delle persone, di questi professionisti che propongono questi video, li realizzano, li mettono in piattaforma. Dall'altro lato, che cosa succede? Che chiaramente c'è un sistema molto evoluto che associa a questi contenuti delle parole chiave. I brand, le aziende dall'altro lato, accedendo nella piattaforma, chiaramente in base ai loro interessi, appunto, che siano i valori dell'azienda, dei prodotti specifici, se cercano in base a queste parole chiave, per cui avviene questo che tecnicamente si chiama matchmaking, che mette in contatto appunto il brand e la sua ricerca con questi contenuti. Più si utilizza la piattaforma, più è efficiente, per cui più acquisisce dati, più sa che un determinato brand è interessato a un certo tipo di contenuti, più lo utilizza, sa che quei contenuti funzionano. E dall'altro lato, un servizio secondo me interessante che diamo ai creativi è quello che li aiutiamo anche a lavorare su dei contenuti che sono ricercati, per cui noi diciamo ai creativi sia qual è il prezzo giusto per i contenuti da proporre poi ai clienti, sia dall'altro lato lì in qualche modo gli facciamo sapere quali sono le parole chiave più ricercate dai clienti, per cui suggeriamo di lavorare su dei temi. È tutto libero, per cui è una loro scelta, però noi proprio abbiamo questa funzione anche di aiutare sia brand che creativi a incontrarsi. Questa è un po' la nostra missione. Certo, voi siete nati però con una piattaforma per distribuire video, giusto? Sì, diciamo, noi nasciamo... Quanto tempo fa? Sì, noi nel 2010 abbiamo cominciato soprattutto, diciamo, occupandoci di una cosa che era più facile all'inizio, che era, diciamo, ingegnerizzare e scalare il processo di distribuzione dei video, che tecnicamente è più facile farlo con la tecnologia. La sfida complessissima originaria, che poi abbiamo fondamentalmente completato da poco, è proprio quella invece di integrare questa piattaforma con la soluzione proprio per invece fare con la tecnologia e con questa soluzione la produzione dei video, che è ben più complessa. Senti, nel mondo del video c'è un business pazzesco, giusto? Sì. Cioè, è il trend di oggi. Tutte le più grosse piattaforme che conosciamo stanno andando in quella direzione, da appunto un trend che è stato all'inizio il mobile, il cellulare, adesso proprio il trend principale è il video. Per noi, diciamo, è il nuovo linguaggio, nel senso che ormai se guardiamo nelle nostre bacheche di tutte le piattaforme che utilizziamo sui social, il video è diventato lo strumento principale, e questo è legato al fatto che grazie anche là alla tecnologia, allo streaming che è migliorato, è molto facile fruire del video e sempre di più viene utilizzato. Voi siete nati in Sicilia, giusto? E continuate a operare dalla Sicilia. Sì, l'azienda, diciamo, è nata proprio in un seminterrato a Mondello, la spiaggia di Palermo. Adesso, diciamo, abbiamo cambiato tre uffici, adesso siamo in un posto molto bello, a Isola, che è la spiaggia subito accanto, questo spazio di 20.000 metri quadrati con la piscina, siamo, diciamo, in vari ambienti, c'è un agrumeto aziendale dove si può fare lavorare facendo il picnic fra gli aranci e i limoni, di fronte il mare, per cui, diciamo, uno spazio che a noi piace molto perché comunque è vicino a una città da 1 milione di abitanti, è a 5 minuti dall'aeroporto, che poi ci collega, no, un po' in tutto il mondo. Ma la banda? La rete internet, perché sai, parliamo di video, quindi se tu già nel 2010 mi dici che il vostro core business era il video, come facevate, come fate tuttora? Te ne posso raccontare tante, come di tutti dirti i colori. Che noi diversi anni fa abbiamo dovuto pagare lo scavo per portare proprio la connessione dalla centralina, diciamo, proprio all'ufficio, proprio lo scavo fisico. Adesso devo dire con grande soddisfazione siamo, tecnicamente il 3% del ranking mondiale, nel senso che soltanto il 3% dei posti al mondo hanno una connessione migliore della nostra. Per cui, diciamo, quindi vi hanno portato una bella fibra. Abbiamo, sì, ormai questo è un tema che adesso, diciamo, è abbastanza risolto, grazie anche ai provider, diciamo, che ci sono. Che si sono accorti che il mondo è cambiato. Senti, quanti siete a lavorare a questa piattaforma? Adesso siamo 140 persone, grossa parte del team, soprattutto di sviluppo, è basata in Sicilia, in questa sede che abbiamo, e poi abbiamo degli uffici commerciali a Roma, Milano, Londra, Madrid, e poi in Asia, Singapore, New Delhi e Seoul. Però lo sviluppo è tutto italiano? Lo sviluppo è tutto italiano. Quindi ci stai dicendo, cosa che mi dicono anche altri, che la creatività e la conoscenza tecnica di noi italiani è buona, e tu trovi persone facilmente o con difficoltà? Allora, nel nostro settore non è molto semplice, ma non è la Sicilia o Milano che fanno la differenza. Stare a Milano non cambia, ci sono soltanto pochi posti nel mondo, Silicon Valley, Tel Aviv, dove veramente c'è un concentrato di professionisti del mondo della tecnologia digitale oggi. Stanno accelerando molto le cose. È chiaro che il talento non manca, noi abbiamo tantissimo talento in Italia, in Sicilia, ingegneri, siamo creativi da morire, lo stile, il design, determinate cose sono proprio parte del nostro DNA. Mancano un poco ancora, diciamo, dei flussi orientati nella formazione, università, gli studi, a formare dei professionisti proprio nel mio settore, chiaramente nel digitale, che però è il settore. Certo, certo, anzi, noi auspichiamo che non solo tu, però sei stato il primo a ricevere, non so quanti altri poi hanno ricevuto soldi da Venture Capital in Sicilia, tu però sei stato il primo. Noi nel sud Italia abbiamo fatto la prima operazione di Venture Capital, il primo finanziamento, diciamo, dell'azienda, poi abbiamo fatto la seconda operazione, è stata una delle prime dove sono state fatte due operazioni. Di quanti soldi stiamo parlando, giusto per far capire gli ascoltatori? La prima 650, 2 milioni e mezzo, e l'ultimo 8 milioni. Quindi quasi 10 milioni di euro. 11 milioni, sì. 11, anzi, 11 più milioni, di 10, sì. Esatto. Per fare cosa? Per sviluppare la tecnologia o svilupparsi commercialmente? E poi ti faccio un'altra domanda sui soldi. Potrebbero sembrare molti, 11 milioni, sono pochissimi. Pochissimi. Infatti, pochissimi. A me, cioè, questa Silicon cosa Valley, fa ridere. In Silicon Valley avresti preso, so, magari 100 milioni. Per 10, sì. Sì, diciamo che questo è uno dei gap oggi, secondo me, del sistema italiano. Accedere a dei finanziamenti in questo settore, così come avviene, diciamo, in altri posti, dove appunto il moltiplicatore è per 10. Sì. Allora, il tema è che manca la tecnicità, per cui non si capisce, per esempio, che cosa c'è dietro una piattaforma come la nostra. Cioè, ci sono i soldi, perché i soldi ci sono. I soldi ci sono. Però chi li deve investire non capisce. Per cui è chiaro che in Silicon Valley trovi quello che ha fatto, no, Hotmail 20 anni fa, e che dice, capisce che cos'è il digitale, eccetera, eccetera. Sì. Questo è un tema, per esempio, che a me tocca molto la mia sensibilità, perché si pensa, faccio un sito internet, faccio una piattaforma, metto 10.000 euro e faccio... c'è un lavoro dietro, ci sono aziende, colossi che conosciamo, che sono andate in profitto dopo 10 anni di perdite enormi. WhatsApp, un'azienda valutata 19 bilioni miliardi da Facebook, che non produce un euro di utile, un euro di, non di utile, ma proprio di fatturato, cioè non fattura. Sì, certo, è gratis. Noi non abbiamo questa cultura, noi guardiamo molto al fatturato, da un lato. Io dico sempre, i principi di bilancio, il sistema, diciamo, nostro contabile, sono basati sul criterio di prudenza. Sì. In un mondo che deve fare innovazione è praticamente, no? Sì. Un'assurdità. Però diciamo che le cose stanno cambiando, c'è un'accelerazione, bisogna aumentare molto la taglia, perché un'azienda, per le aziende che conosciamo, non ce n'è una che non ha raccolto almeno le note, 1 miliardo di finanziamenti, prima di poi generare utile, di andare sul mercato in un certo modo. Certo. Ed è una realtà, cioè è così, non ci sono scorciatoie. Sì, anche perché poi alla fine il risultato è che l'azienda prospera e speriamo funziona, ma poi si traduce in posti di lavoro, benessere in un territorio. Quindi poi... Una cosa che non si dice mai è che il software è una delle cose che genera più impatto sui posti di lavoro, perché un'azienda di software è fatta al 90% da persone, il software, il prodotto è fatto al 10% spesso, 15% da forza lavoro. Oggi il software viene pensato da persone, per cui diciamo un terzo, due terzi di quel fatturato è proprio, va direttamente alle persone. Faccio una domanda su questo perché è interessante. C'è chi dice che i sistemi di intelligenza artificiale riusciranno a compilare i software. Ci credi o mica tanto? Allora, io chiaramente sono un grande appassionato di intelligenza artificiale, allora ancora però è un po' sovrastimato, cioè nel senso cambierà il mondo in pochissimo. Ancora, diciamo, su alcune cose non è chiarissimo quello che succederà. Sicuramente ci sono già degli esempi, Google ne ha fatto uno, di un'intelligenza artificiale che scrive intelligenza artificiale, per cui già c'è questo processo. Io sono dell'idea, in questo sono molto positivo, voglio esserlo, il tempo ce lo dirà, che in realtà l'uomo sta andando di pari passo con l'evoluzione tecnologica, cioè sì, l'intelligenza artificiale ha determinate caratteristiche, però l'uomo, se noi pensiamo alla nostra capacità di accedere alle informazioni 15 anni fa e quella che abbiamo adesso, l'uomo pure sta crescendo tanto, sì, da un punto di vista di per cui è un mondo dove le regole ancora devono essere definite. Un falso mito è legato al fatto che verrà tutto, diciamo, stravolto. In realtà sì, si perdono posti di lavoro, ma se ne generano altri. È chiaro che alcune industrie non hanno più motivo di esistere, per cui è chiaro che oggi c'è un grosso impatto, va gestito e non è una cosa semplice da valutare. Certo. Se torniamo al video, a tuo parere quali sono i trend tecnologici, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi o anni? Allora, due macro trend, diciamo opposti ma vicinissimi, che sono la realtà virtuale, per cui con un casco fare un viaggio alle Hawaii senza muoversi dalla stanza, è la realtà aumentata, che è un po' un concetto opposto ma che va di pari passo. La realtà aumentata invece vuol dire che tramite uno schermo vedo nella mia stanza una realtà che non c'è, per cui sono due concetti opposti ma che vanno un po' nella stessa direzione, per cui fondamentalmente rendere sempre più reale e più virtuale l'esperienza della persona e creare, diciamo, delle cose che non esistono grazie al video. Questo è un macro trend. L'altra componente molto importante è quella diciamo, dell'utilizzo del video come linguaggio, cioè sempre di più il video sta diventando proprio, se pensiamo per esempio alle YouTube star, no? A queste persone che da zero diventano famosissimi perché grazie all'utilizzo del video diciamo raggiungono direttamente milioni di persone. Prima un video visto aveva 10.000 visualizzazioni, oggi ha miliardi di visualizzazioni, per cui anche l'accesso a un audience. Questi sono i tre principali trend, due tecnologici e uno proprio in termini di visibilità. Ormai quello è un canale preferenziale col quale, grazie al digitale, si accede a un audience che prima era impensabile. Sì. La piattaforma di Mosaicon è un'opportunità di lavoro anche per i videomaker, per i creativi del video? I nostri principali clienti, di fatto a noi piace vedere proprio i creativi, che è appunto a noi la nostra mission fondamentale è quella di dare a dei team validi, a dei creativi validi, accedere a dei budget delle grosse aziende che li pagano per i contenuti che sono in grado di realizzare. Ma com'è il rapporto? Devono prima realizzare un video e caricarlo sulla piattaforma, oppure lo realizzano su vostra indicazione? Come nasce? Allora, loro hanno due possibilità: o presentano un progetto abbastanza chiuso, anche se il video non è finalizzato al 100%, e poi se il cliente lo acquista lo realizzano, oppure possono proprio caricare un video già fatto che poi in alcuni casi possono modificare. Quello che noi facciamo è dargli delle informazioni per aiutarli a capire a che prezzo vendere quel contenuto in base alle specifiche del video che stanno facendo, e poi e dargli delle indicazioni su quelli che sono i contenuti più richiesti dalle aziende. Però proprio quello che noi facciamo è tagliare questo rapporto, diciamo, dall'alto verso il basso, dove il cliente ti dice devi farmi questo video così, e che è molto frustrante per il creativo, e che è poi quello che oggi non permette a un creativo magari di talento di lavorare direttamente con delle grosse aziende. Videomaker da tutto il mondo avete? Da tutto il mondo. Anche i tre uffici in Asia sono molto in questa direzione. Noi abbiamo investito molto in Corea in particolare, che oggi nel report Bloomberg è il paese più innovativo al mondo, proprio il primo nella graduatoria, proprio perché ci piace confrontarci col paese più innovativo del mondo e essere sicuri che dovunque andiamo, se funziona là. Certo, questo vale anche per il consumo di video? Questo vale anche per quali sono le aree dove, diciamo, c'è più business da questo punto di vista? Ma allora, se pensiamo per esempio a Seoul, il numero di monitor che ci sono in città è 10 volte superiore a quelli che troviamo a New York. Se pensiamo a Singapore, un'altra città dove siamo presenti, c'è una cosa che per alcuni è anche un po' inquietante, per me anche in parte, che è l'utilizzo dei dati. Cioè in Singapore tu sei un cittadino che viene monitorato in qualsiasi momento, e questo anche tramite proprio il video, sia come osservazione che come strumenti. Pensa che, ti interrompo per citare un caso, proprio a Singapore ero andato a visitare una radio che aveva un reparto dedicato al monitoraggio del traffico, perché facevano le informazioni sul traffico. Allora, la differenza con, pensa, Singapore è una città, no? Quindi, pur grande che sia, questi avevano tipo un centinaio di monitor, cioè un centinaio di videocamere, monitor non un po' meno, che potevano passare da un monitor all'altro e vedere, quindi già qualche anno fa, parlo di 5-6 anni fa. Quindi, sono, diciamo, dei paesi, fa un po' impressione, allora, fa tanto apprezzare la qualità della vita che abbiamo in Italia su un aspetto diciamo tradizionale, no? Del concetto di qualità della vita, tanto mi sento quando vado in questi posti si vede un po' un gap se parliamo di queste cose, no? Sì. Senti, volevo concludere sulla falsa riga di quello che stai dicendo. Noi abbiamo grande talento, competitività, siamo bravi su tante cose, però abbiamo anche dei problemi culturali, finanziari, burocratici per far crescere le aziende innovative. Tu che cosa pensi che accadrà nei prossimi anni? Sei ottimista, pessimista? Cosa pensi che dobbiamo mettere a posto? Ma io parto da un dato oggettivo, che la tecnologia è velocissima e proprio per la sua velocità permette di recuperare dei gap enormi in pochissimo tempo. E questo, la storia della Silicon Valley è fatta di un posto che non esisteva nella cartina degli Stati Uniti e che è diventato il centro, ha superato Wall Street, no? La stessa cosa può succedere in Italia, per cui non abbiamo, diciamo, non dobbiamo avere un complesso di inferiorità a monte per cui è impossibile recuperare questo gap. Ci sono, devo dire, dall'altro lato anche tante persone che si muovono con generosità, anche parlavamo degli investimenti, no? Se pensiamo al venture capital in Italia, tante persone che stanno cercando di in qualche modo muoversi in questa direzione. Chiaramente dobbiamo fare tante cose tutte insieme, e in questo, diciamo, le sovrastrutture che abbiamo in Italia e questa proiezione costante al passato piuttosto che al futuro è un limite che dobbiamo risolvere. Dobbiamo vedere il futuro come un'opportunità, non come un problema. Ugo, grazie per essere stato con noi. In bocca al lupo. Crepi. E buon lavoro. Grazie. A presto. Riprendiamo questa puntata di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda il venerdì sera tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14 e quando preferite, quando volete in podcast. La nostra edizione podcast contiene tutte le nostre interviste in versione integrale, oltre che digitale ovviamente. Potete ascoltarci anche tramite l'app di Radio 24 sul vostro smartphone. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 e radio24.it. Dunque, adesso parliamo ancora di video e di pubblicità, e parleremo di una nuova dimensione, perché le tecnologie che vengono oggi utilizzate per il web, per erogare contenuti pubblicitari sul web, e le cose si stanno complicando moltissimo, ma vi sveleremo alcune situazioni interessanti in questa puntata. Dicevo, alcune tecnologie che vengono utilizzate oggi per erogare pubblicità sul web stanno uscendo, e uso questo termine non a caso, perché il vecchio mondo delle affissioni, avete presente i cartelloni pubblicitari in giro per le strade, alle fermate della metropolitana, degli autobus, eccetera, eccetera, anche questo mondo sta cambiando moltissimo. Ne parliamo con Alfonso Mariniello, che è il country manager di Adform. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi vi occupate di pubblicità. Esattamente. Anche se detta così è un po' troppo, vi limita un po'. Che cosa fate in generale? Ma noi diciamo che siamo una delle principali piattaforme tecnologiche esistenti al mondo per la gestione delle campagne pubblicitarie. Quindi in pratica noi siamo uno di quei sistemi che permettono all'industria della pubblicità, soprattutto online, di funzionare in pratica, perché tramite le nostre piattaforme siamo in grado poi di mettere in contatto il mondo di chi ha qualcosa da vendere, ovvero gli editori, con i compratori, che sono tipicamente o le grandi agenzie pubblicitarie o molto spesso, come avviene, anche i clienti diretti. Certo, quando vediamo un messaggio pubblicitario su un sito internet, ad esempio il sole24ore.com, nella catena che collega il sito internet del Sole 24 Ore a una piattaforma che chissà dov'è, che eroga quel messaggio pubblicitario che può essere un banner o un video, in mezzo a questa catena voi avete un ruolo importante. Esattamente, noi siamo appunto uno di questi attori che permettono da un lato di poter erogare, diciamo, la pubblicità giusta all'utente giusto, perché come si può ovviamente capire il mercato si muove verso una maggiore personalizzazione, cioè gli inserzionisti pubblicitari, loro vogliono massimizzare al massimo i loro investimenti, di conseguenza loro vogliono mostrare sempre il giusto messaggio alla giusta persona nel giusto momento e anche, oramai bisogna aggiungere, anche sul giusto schermo, proprio perché ciascuno di noi oramai è in possesso o comunque entra in contatto con un numero veramente diverso di schermi. Basta pensare che tipicamente abbiamo magari un computer fisso, un portatile, un tablet, i cellulari, e poi per non parlare che quando usciamo fuori di casa possiamo appunto incontrare anche i cosiddetti digital outdoor screen. Certo, e ci arriviamo a questi schermi che diventano sempre più intelligenti. Quindi mi stai dicendo che una volta che in maniera più o meno anonima io vengo individuato come un target di un certo messaggio pubblicitario, potrei vedere un messaggio di un tipo se guardo quel sito da un computer e un altro tipo di messaggio se lo guardo dallo smartphone? Assolutamente sì, così come ti potrei dire che se guardi il sito al mattino piuttosto che alla sera vedrai probabilmente delle pubblicità diverse, ma non solo. Se io e te dovessimo aprire in contemporanea dai nostri computer il sito per esempio del Sole 24 Ore, quasi sicuramente vedremmo dei messaggi diversi, perché sono messaggi pensati per, diciamo, il nostro profilo di utente in rete, che sicuramente è diverso. Basta pensare a tutte le campagne che per esempio hanno come obiettivo il retargeting, ovvero ricontattare le persone che sono già state in qualche modo sul sito web di un'azienda, ma magari non hanno comprato, comunque non hanno completato il motivo, il processo per cui erano su quel sito web. Tipicamente le aziende poi cercano di ricontattare questi utenti in qualche modo per ricordargli di torna da noi e concludi quello che stavi facendo ma che per qualche motivo non hai portato a termine. Facciamo un esempio: se io vado a vedere un sito internet che vende scarpe, ci sono dei network su internet che fanno sì che i siti si parlino tra di loro, e magari vado sul sito del Sole 24 Ore dopo due o tre ore, anche il giorno dopo, e casualmente, ma non casualmente, vedrò una pubblicità di scarpe. Esattamente. Di quel sito. Esattamente, certo, ovviamente. Certo. Questo è uno dei modi con cui viene erogata la pubblicità. Citiamo una parola che poi traduciamo in modo molto semplice. Voi siete un protagonista del cosiddetto programmatic, che sta cambiando molto le dinamiche di questa industria, dell'industria della pubblicità. Cosa significa? Allora, io molto spesso cerco di spiegare questa rivoluzione, perché si tratta di una vera e propria rivoluzione in questo settore, che ormai ha avuto luogo circa 5 anni fa, però sta diventando, diciamo, mainstream, ovvero il grosso degli investimenti pubblicitari oramai sta migrando verso questa nuova modalità d'acquisto. Ma detta veramente con un esempio molto semplice da capirsi, bisogna immaginare che ogni sito web, ogni editore è alla fine un venditore, ha una merce a propria disposizione che sono chiaramente gli spazi pubblicitari. Grazie a questa tecnologia il sito web, quindi il venditore, è in grado di portare la merce a una specie di mercato virtuale, ma è un mercato a tutti gli effetti. Come la borsa. Sì, esattamente. Come la borsa delle azioni. Esattamente. Sì. Infatti molto spesso si utilizza il paragone che nel mondo pubblicitario è avvenuto quello che è avvenuto nel mondo finanziario con l'avvento delle borse telematiche, in qualche modo, e la fine delle contrattazioni fatte manualmente, diciamo così. Comunque, questa merce che viene appunto portata a questo mercato virtuale viene poi esaminata dai compratori. Compratori, come dicevo prima, possono essere le grosse agenzie pubblicitarie o direttamente le aziende che si gestiscono le loro campagne online, e questi compratori in pratica hanno la possibilità di esaminare ogni singolo spazio pubblicitario che è stato portato al mercato, decidere se quello spazio gli può interessare in quel determinato momento e fare un'offerta. Poiché si tratta, dietro c'è un vero e proprio meccanismo di asta, esattamente come conosciamo le aste tradizionali, delle borse o per gli oggetti di valore, questo è un meccanismo d'asta che funziona nella stessa modalità, ovvero tutti i compratori fanno un'offerta, chiaramente vincerà l'offerta più alta in quel momento. Ma la cosa interessante è che per il singolo spazio pubblicitario, ovvero per quella, noi in gergo tecnico la definiamo impression, che è la visualizzazione di una pubblicità online, quindi per quella singola impression i compratori fanno delle offerte molto spesso per motivi diversi, perché durante questo meccanismo d'asta ai compratori in qualche modo è permesso esaminare, diciamo così, l'utente che poi vedrà questa visualizzazione. E quindi ci potrebbe essere il caso per cui per un compratore è interessante comprendere quell'impression perché magari quell'utente risiede in Basilicata. Per un altro compratore quello lì è l'utente che aveva visitato il proprio sito web un'ora fa ma non ha comprato il famoso paio di scarpe. Per un terzo compratore ancora lui magari ha delle informazioni su quell'utente di tipo magari profili sociodemografici e quindi fa un'offerta perché è in target con la sua campagna. Certo, certo. Quindi se capisco, quando io sono su un sito internet, ilsole24.com, quindi facciamo gli esempi tutti in famiglia, o radio24.it, certo. Ma insomma facciamo sempre parte dello stesso dominio, e magari io vedo in quel momento un messaggio pubblicitario o di una marca di automobili o di un paio di scarpe o di un'azienda che mi vende un viaggio, dietro le quinte c'è proprio questo meccanismo ad asta e il sito internet fondamentalmente dice a chi vuole investire, vuole fare pubblicità: guardate che io in questo momento, naturalmente tutto questo avviene in microsecondi. È per questo motivo che molto spesso si parla di real time bidding, ovvero è l'asta in tempo reale. Quindi io sito internet dico: guardate amici del mondo pubblicitario, ho qui davanti una signora che vive in una grande città che secondo le mie stime ha tra i 40 e i 50 anni e magari ha figli, perché ho visto che ha visitato siti di passeggini eccetera eccetera. Chi è che è interessato a mandare un messaggio pubblicitario a questa signora? E lì c'è l'asta. Quindi appunto, come tu dicevi, c'è chi è interessato perché quella è una donna, c'è chi è interessato perché vive in una città eccetera eccetera. Esattamente. Poi chi ha effettivamente vinto l'asta, immediatamente sarà lui a erogare il messaggio pubblicitario e nel tempo che appunto dicevi tu che carica la pagina avviene tutto questo processo. L'utente ovviamente non si accorge praticamente di nulla se non del fatto particolare che molto spesso le pubblicità, uno vorrebbe dire, sembrano proprio tagliate su misura per me, ma perché è così? Perché effettivamente dietro c'è l'utilizzo poi soprattutto di questo mondo, il cosiddetto mondo dei big data, ovvero di tutte queste informazioni che è possibile raccogliere sugli utenti, elaborare, creare dei cluster, dei segmenti, perché ovviamente siamo tutti indirizzati verso un mondo dove, lo vediamo già su tanti altri servizi, non esiste più il cosiddetto mass market, cioè non ci può più andare bene un messaggio pubblicitario che è uguale per tutti, no, per ogni persona ci deve essere un messaggio veramente tagliato su misura. Certo. Questo che abbiamo raccontato l'abbiamo raccontato in maniera abbastanza semplice, ma dietro a questo mondo ci sono tecnologie che cambiano molto velocemente, è un mondo veramente molto complicato e, come abbiamo detto anche recentemente, probabilmente molti dei nostri ascoltatori si imbattono in messaggi che a volte non capiscono bene, dicono: ma perché mi fanno vedere questo messaggio? O perché ho appena comprato un paio di scarpe e mi continuano a far vedere messaggi di scarpe che vogliono vendere? È perché non sempre poi queste tecnologie vengono utilizzate al meglio. No. E potremmo dire è lo stesso discorso che avviene anche su altri media, quando per esempio in televisione siamo bombardati dallo stesso spot in continuazione e giustamente la persona normale dice: ma perché me lo fanno rivedere quando ormai lo so a memoria? Certo, certo. Senti, uno degli temi di cui vorremmo parlare in questa puntata è quello che avviene nelle pubblicità che noi vediamo mentre passeggiamo fuori da casa, durante una passeggiata in città oppure in una stazione. Allora facciamo subito l'esempio della stazione per capire che cosa sta succedendo e all'interno di quale evoluzione sta accadendo tutto ciò. Sì, allora quando parliamo ovviamente di schermi, di solito sono grandi schermi situati in aree esterne, appunto come dicevi prima, il cosiddetto mondo dell'outdoor, dobbiamo pensare che questo è un settore pubblicitario ovviamente di tradizione antichissima, basta pensare da quanto tempo esistono le affissioni pubblicitarie, ma che negli ultimi tempi ha fatto dei passi da gigante in termini di modernizzazione, si può pensare che hanno fatto veramente un doppio salto carpiato, cioè il primo passaggio per chi gestiva questi spazi pubblicitari è stato ovviamente il fatto di investire in impianti che fossero ovviamente digitali, ovvero parliamo di schermi a tutti gli effetti, molti dei quali, o direi ormai praticamente tutti, sono anche collegati in rete, quindi a internet. Sì. Quindi un passaggio, diciamo, dal cartaceo, che aveva tutta una serie di limitazioni che sono chiare, evidenti. Basti pensare che ovviamente una campagna di tipo affissione cartacea, una volta che ho definito il messaggio, ho fatto stampare i volantini e li ho appiccicati, quelli devono rimanere magari per, che ne so, 15 giorni o addirittura un periodo ancora superiore. Certo, se invece io ci metto un display, uno schermo, cambia tutto. Posso cambiare ovviamente il messaggio dinamicamente tutte le volte che voglio, e poi vedremo magari anche qualche altro esempio concreto. Il secondo passaggio che una parte del mondo dell'outdoor ha fatto, e in questo caso mi riferisco proprio a un esempio concreto tutto italiano, che è la realtà di Grandi Stazioni, che è la società che gestisce gli spazi outdoor all'interno delle principali stazioni dell'alta velocità in Italia, quindi parliamo di impianti importantissimi come Roma Termini, Milano Centrale, Firenze, Santa Maria Novella, eccetera eccetera. Bologna, esattamente. Okay. Loro hanno addirittura fatto un ulteriore passaggio, perché hanno deciso di rendere parte, diciamo, dei loro spazi da vendere in outdoor disponibili nella modalità programmatica, ovvero quel discorso che abbiamo appena fatto di portare questi spazi in un mercato dove tanti acquirenti in tempo reale possono decidere se vogliono prendere quello spazio, a che condizioni prenderlo, eccetera. Quindi i messaggi pubblicitari cambiano, però in quel caso, come citando l'esempio di Grandi Stazioni, come è possibile sapere chi c'è dall'altra parte? Perché dall'altra parte c'è un pubblico che passeggia, che sta andando a prendere il treno, che pure scende dal treno e va dove deve andare. Certo, sì, infatti devo dire, le analogie con il mondo del web chiaramente possono... Non sono così precise. Sì, così precise, perché comunque stiamo parlando di un media che è ben diverso ovviamente dal mondo internet. Però anche lì ci sono delle evoluzioni tecnologiche molto interessanti. Basti pensare che gli impianti di Grandi Stazioni, buona parte dei totem che si vedono appunto nelle stazioni ferroviarie, sono dotati di una videocamera. E questa videocamera è equipaggiata con un software, okay, che ha un algoritmo che permette di fare alcune, diciamo, operazioni di riconoscimento delle persone che gli stanno davanti, quindi mantenendo sempre in maniera totale l'anonimato chiaramente, perché non si parla mai di dati sensibili. Però questo software è in grado banalmente di sapere, di contare quante persone sono in quel momento di fronte allo schermo, se c'è una preponderanza di uomini o donne nel pubblico, quali sono le fasce di età più rappresentate e addirittura anche il livello d'attenzione, nel senso che questo software si accorge se lo sguardo è rivolto in direzione del pannello oppure in realtà è una persona che magari è girata di lato perché sta controllando il tabellone degli orari. Quindi ci stai dicendo che i messaggi pubblicitari cambiano con le logiche che abbiamo raccontato prima, cioè dell'asta, della ricerca del miglior matching, della migliore corrispondenza tra messaggio e utente, in base ad esempio, se ci sono più uomini ci sarà un messaggio, se ci sono più donne ci sarà un altro messaggio. Esattamente, e anche in termini poi di reportistica, perché questo è un altro tema molto caro e molto importante, credo anche al mondo dell'outdoor, che sta cercando appunto di dotarsi di strumenti sempre più analitici per poter rendicontare esattamente quante persone sono state esposte alle campagne pubblicitarie. Questo ovviamente è un grosso passo in avanti, perché si passa da una logica più di misurazione, chiamiamola così, di tipo statistico, come avviene molto spesso con le indagini stile Auditel, Audiradio, eccetera, eccetera, si passa invece a un modello di misurazione puntuale che invece è molto più tipico del web, dove in realtà ogni singolo evento, ogni singola visualizzazione di pubblicità è segnata da un computer e sono tutti dati che poi possono essere elaborati. Certo, tracciata. Senti, facciamo degli esempi di cosa può succedere già oggi o di cosa potrà succedere in futuro legando alcuni dati con il messaggio pubblicitario, ad esempio il meteo. Sì. Cosa si può fare? Ma guarda, queste sono già cose assolutamente disponibili oggi, quindi non stiamo neanche parlando di scenari futuribili, ma già tutt'oggi è possibile, per esempio, dare dei comandi per cui le campagne pubblicitarie o determinati messaggi di una campagna pubblicitaria devono essere attivati o disattivati in base alle condizioni meteo. L'esempio più classico è: sono un'azienda che produco abbigliamento di diverso tipo, se so che a Milano oggi sta piovendo e fa freddo, posso decidere di mostrare quindi in tempo reale la mia collezione pensata per la pioggia, e se invece ci saranno 40 gradi e un'afa terribile, mostrerò magari i costumi da bagno. Lo stesso discorso quindi di campagna che viene attivata da eventi esterni ormai si applica praticamente, ti direi, a qualunque fonte di dati. Cioè si possono decidere di attivare le campagne per esempio in base alle quotazioni in borsa, in base a anche le news, quello che avviene nel mondo, i risultati sportivi. Per esempio mi ricordo di campagne che durante i mondiali dovevano essere erogate oppure non erogate in base per esempio ai risultati che faceva l'Italia nelle varie partite, perché è ovvio che molto spesso non fa piacere a un inserzionista dire forza azzurri, siamo tutti con voi nel momento in cui noi le stiamo prendendo di sana ragione da qualche avversario. Cosa che è capitata, che ne so, in TV si è visto, sono visto un sacco di messaggi pubblicitari della... che ne so, della marca tal dei tali che faceva pubblicità a sostegno degli italiani, magari mezz'ora prima l'Italia aveva preso aveva perso. Infatti secondo me è sì, certo, sul web queste cose possono, se ben gestite, ben comandate, possono essere risolte in maniera diversa. Facciamo un altro esempio molto bello, interessante, di una campagna che è stata fatta in Nord Europa contro il fumo. Sì, anche questo qui, questo era diciamo molto divertente dal punto di vista della user experience, come diciamo noi in gergo, perché praticamente erano dei pannelli di outdoor dotati di un sensore, probabilmente rilevavano appunto il fumo di sigaretta, e quando si accorgevano che c'era una persona nelle vicinanze che fumava, il pannello, cioè l'animazione, l'omino nel video del pannello iniziava a tossire. E quindi era, se volete, una bella combinazione di virtuale con il reale. Ma se ti posso fare anche altri esempi, noi per esempio come Adform abbiamo gestito delle campagne di questo tipo sempre in Nord Europa, dove alcuni pannelli erano dotati di Bluetooth e quindi permettevano agli utenti per esempio di attivare il Bluetooth sul loro telefono e scaricare dei contenuti. In questo caso si trattava di una campagna di una nota etichetta musicale che quindi permetteva il download di alcuni brani di esempio. Certo. Ma basta pensare che veramente soprattutto l'abbinamento fra lo strumento del cellulare e i pannelli outdoor permetteranno, pensiamo, nel prossimo futuro di fare veramente delle cose molto interessanti. Quindi i messaggi pubblicitari alla Minority Report, adesso non so se era il film esatto, però era, ricordo quello, una scena, il personaggio Tom Cruise passeggiava e lui vedeva dei messaggi pubblicitari rivolti, addirittura il video si rivolgeva a lui col nome. Esattamente. Si rivolge, perché il film è ancora lì. Sì, certo. Sì, basti pensare che già a tutt'oggi, sfruttando le tecnologie esistenti, volendo, potrebbe essere possibile riconoscere gli utenti quando si avvicinano al pannello dell'outdoor in base al proprio cellulare. Certo, questo presuppone che l'utente abbia dato preventivamente tutta una serie, diciamo, di consensi, un po' come quando si scaricano le app. Cioè, non stiamo dicendo chiaramente, e non dovrebbe mai essere possibile, che di colpo possiamo essere tracciati in maniera così... Sì, anche perché poi ci saranno delle scene imbarazzanti per cui io ho dato l'autorizzazione, sono in stazione, il totem mi riconosce e magari mi dice: ah, lei ieri sera è stato nel tal paese. E uno dice, come, si guarda attorno e dice: ma come? Però immagino che possano essere delle evoluzioni, oppure, che ne so, il messaggio che ti parla nelle cuffiette mentre tu stai ascoltando la musica, arrivi davanti a uno schermo, quello schermo si rivolge a te e tu senti da solo. Sono cose che mi vengono in mente in questo momento, potete utilizzarle per le vostre future campagne. A me piace molto, non so però fino a che dimensione di schermo oggi venga utilizzata per fare questi esperimenti, queste nuove campagne. Mi piace molto l'idea di gente che si trova in coda sull'autostrada e il messaggio pubblicitario cambia in base a quella condizione. Tra l'altro, in alcune nazioni, per alcune normative, i messaggi pubblicitari non possono essere messi in certi luoghi, ma magari in caso di coda potrebbero essere attivati, proprio perché sei in una situazione diversa rispetto a quando vai... Non so, vengono già utilizzati schermi di 10 metri per 5 o siamo ancora su una dimensione medio-piccola? Allora, al momento siamo ancora su una dimensione medio-piccola, ma perché molto spesso è questo, diciamo, il taglio principale degli schermi disponibili sul mercato, più che altro. I grandi schermi sì, esistono, devo dire a tutt'oggi sono rimasti un po' al di fuori magari a queste logiche, anche perché molto spesso sono posizionati molto in alto, basti pensare agli schermi nella stazione centrale, per cui mancherebbero anche di quell'interazione che possono avere invece con il pubblico. Però col meteo andrebbero benissimo, no? Quello assolutamente oppure sì. Oppure mattina, sera, eccetera, eccetera, andrebbero benissimo. Bene, Alfonso, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a voi. È tutto per questa puntata, per questa settimana. Se volete ascoltarci via radio, la prossima settimana torniamo come sempre il venerdì a partire dalle 22, domenica nella nostra breve replica alle 13.30, oppure c'è l'ottima soluzione del podcast. Fateci pubblicità, come sempre, consigliate ai vostri amici e ai vostri colleghi di lavoro di ascoltare 2024, che immagino per alcuni possa essere anche un motivo di crescita professionale. Il mio indirizzo di posta elettronica, di fatto quello della trasmissione, ma insomma poi le leggo anche io, le email, 2024, scritto in cifra, 2024, e radio24.it. Grazie ancora per l'ascolto, per l'attenzione, per aver scaricato o ascoltato in streaming questa puntata del nostro programma. Appuntamento alla prossima settimana.